Gli speciali di Radio 24. Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Ma sì, viva l'Italia! Viva l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. Com'è che titolano tutti oggi? Auguri Italia! Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia! L'Italia sulla luna. E allora, fino alle 10 oggi, uno specialone, abbiamo scelto questo, no? Viva l'Italia! Più bello di così, viva l'Italia. Ma voi vi sentite orgogliosi di essere italiani? E questo ve lo teniamo come leitmotiv. Viva l'Italia! E il nostro L'Italia sondaggio è che potete votare fino alle 10 oggi eccezionalmente. Noi abbiamo detto Oscar Giannino vieni prima, noi esonderemo invece con Oscar Giannino e staremo insieme fino alle 10. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Così per celebrare l'unità d'Italia, per discutere l'unità d'Italia senza troppa retorica, per carità. Ma insomma è un giorno importante, 150 anni. E tra l'altro avremo diversi ospiti. Voi dovete votare su radio24.it, perché non è che ci siamo dimenticati. Il sondaggio lo trovate sempre lì, bianco o nero, nella home page. Votate a questa domanda: vi sentite orgogliosi di essere italiani? Anzi, andiamo a vedere subito com'è la situazione. Il 60% dice di sì. 61%. C'è ovviamente in regia l'alpino Peter Bescapè, che voglio dire è più orgoglioso di lui. Chi può esserlo? C'è Alessandro Longoni, la vedo dietro con una bandiera italiana che oggi per l'occasione svetta in regia. C'è anche Alessandro Marco Tulli, che arriva anche Elisabetta Fusconi, redazione. Insomma, siamo tutti qui. Io voglio intanto dire gli ospiti che saranno con noi. A cominciare dal ministro Ignazio La Russa, il ministro alla difesa, tra poco, subito dopo la pubblicità, inizieremo con lui e poi... Ma perché hai tolto la musica? Peter, rimettimi un po' di musica, così li facciamo... Rimettila, viva l'Italia, dai, così mi sento nudo senza viva l'Italia. Viva l'Italia! E oggi è così. L'Italia che e poi avremo il professor Andrea Carandini, archeologo famoso che si è dimesso da presidente del Consiglio Superiore del Ministero per i Beni Culturali. Ha mandato anche una lettera molto molto intensa al Corriere della Sera. Avremo Nino Mameli. Mameli, insomma, forse già avete capito, no? Musicista, lontano nipote, lontano parente di Goffredo Mameli, quello dell'inno. Avremo degli storici, Sergio Luzzatto, Francesco Perfetti a parlare con noi della storia dell'Unità d'Italia. Avremo voi ascoltatori, ovviamente. 800 24 00 24, i numeri, i telefoni sono già aperti, c'è la nostra Rosa che ovviamente ho già visto qua girare, prende le vostre telefonate per capire se siete orgogliosi o meno di sentirvi italiani in questa giornata un po' particolare. Ripeto, il 61% di voi per ora dice di sì. Chiamateci, vi manderemo in onda, sentiremo il vostro parere, le vostre opinioni. E che dire, ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità e poi partiremo con i nostri ospiti. Partiremo per questo speciale fino alle 10. Gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Gli speciali di Radio 24. vedete che lo mettiamo anche noi, no? Anche noi. Sì, l'inno di Mameli. Chissà quante volte risuonerà oggi nelle orecchie degli italiani. Italiani, allora vi sentite orgogliosi di appartenere a questa nazione che oggi celebra i 150 anni dell'unità. E allora io voglio sentire già qualche ascoltatore, perché sono in tanti che ci chiamano e ci dicono. Giovanni da Pistoia, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica, dica, subito, buongiorno. Orgoglioso o no? Orgoglioso, come fa a essere orgoglioso? Me lo dica lei. Non lo so, mi metto io. Mano sulla coscienza, via, sia sincero. Mi dica che lei è contento di vivere in questo paese e poi andando all'estero, essendo lei italiano, sì, si sente orgoglioso di essere italiano. È vero così? Io, se sono contento di vivere in questo paese, vuole una risposta? No, vuole... un no, lei me l'ha chiesto, vuole una risposta se mi sento orgoglioso di vivere. Ecco, no, non orgoglioso di vivere, orgoglioso di essere. Di essere. E lei cosa si sentirebbe di essere invece? Io non mi sento assolutamente orgoglioso di essere italiano. Lei c'ha addirittura tra i suoi ospiti un ministro che quando viene intervistato si prende a calci con i giornalisti. Mi sento orgoglioso di essere italiano. Vabbè, tra poco lo avremo ospite il ministro La Russa. Lei non è orgoglioso. Grazie Giovanni da Pistoia. Gian Pietro da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io non sono neanche io orgoglioso, io anche perché come lavoratore, come delegato FIOM, diciamo mi trovo a un confronto con chi italiano, magari in questo senso imprenditore, io lo chiamo poi padrone, ricatta invece altri italiani lavoratori dicendo che se non accettano le condizioni riducono i loro diritti. Cioè il proprio, quello di fare i profitti e vuole rimanere inalterato, questi prendono e se ne vanno in altri paesi. Sì, quindi sì. Cioè, il ragionamento è anche rispetto all'appello di Napolitano che bisogna essere tutti italiani insieme, ce la facciamo, a parte queste retoriche per me un po' inutili, rimane che non c'è l'orgoglio, italiani non ce l'orgoglio. Diverso tipo. Ma no, ma certo, ma questo sì, ma poi parleremo dei problemi dell'Italia, perché noi italiani siamo sempre così, a parlare subito dei problemi, anteporre i problemi. Infatti qualcuno mi chiede, ma lei, io, sarei orgoglioso di essere italiano, anche via sms al 349-238-6666. Non fateci svelare tutto subito, ma adesso con calma io e Oscar Giannino, che c'è in questo speciale, non vi preoccupate, c'è, daremo, è il periodo degli elenchi, no? Sapete, è il periodo degli elenchi, faremo i nostri elenchi, i motivi per cui siamo orgogliosi o ci sentiamo orgogliosi di essere italiani, i motivi per cui ci sentiamo non orgogliosi di essere italiani. Sveleremo le nostre personalissime verità. Alessandro dalla provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Anche io mi sento moderatamente orgoglioso. Moderatamente. Già facciamo un primo passo, dai. Un passo così, perché oggi è una giornata particolare. Mi viene in mente quello che hanno le notizie riportate ieri di questo furto del quadro dallo studio del sindaco di Napoli. E vabbè, che c'entra? E questo è un episodio tra i tanti che non fa tanto essere orgogliosi. Ma insomma, perché, dai, è un furto di un quadro, adesso sincero. Accorta quando oramai era già venuto. Ho capito, ma Alessandro, Alessandro, mi sente? Alessandro, ma lei mi sente? Alessandro? Sì, scusi. Perfetto, dica. Mi sente. È già un primo passo anche questo. Che c'entra il furto di un quadro per non sentirsi essere orgogliosi di essere italiani? Hanno rubato un quadro dall'ufficio del sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Vabbè. Tanti episodi che accadono in Italia e che non fanno essere orgogliosi. Va bene, un furto d'arte. Va bene, grazie Alessandro. Pier Mario dalla provincia di Pordenone. Buongiorno, e viva l'Italia a questo punto. Perché... Oh, finalmente il primo che sdogana un po'. Dica, lei è orgoglioso? Io sono orgoglioso di essere italiano, purtroppo non sono orgoglioso degli italiani o comunque di quelle persone che ci governano, perché ne senti di tutti i colori e secondo me molti di quelli hanno perso la strada o il motivo per cui sono lì, se non magari per il posto di privilegio che ricoprono. E forse anche per questo che il 38% degli italiani non è così orgoglioso di esserlo. Non è così orgoglioso di esserlo. Voglio chiederlo intanto, la ringrazio Pier Mario, voglio salutare il ministro della difesa, Ignazio La Russa. Ministro, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere con noi per pochi minuti, ma la giornata è, come dire, di quelle particolari. Posso dire, ministro, che per lei è la giornata più importante dell'anno? La sente così? Ma io non credo solo per me, io credo che la risposta degli italiani a una festa che molti volevano negare è veramente incredibile. Io ieri sera a Roma, ma ho notizie di tantissime altre città d'Italia, ho visto flotte di gente che erano orgogliosi di sentirsi italiani e di partecipare a una celebrazione che certamente ricorda quello che è avvenuto in questi 150 anni, ma che vuole essere di preparazione a un futuro da protagonisti. Ministro, risponda a qualche nostro ascoltatore che dice: siamo orgogliosi di essere italiani, ma non orgogliosi di essere rappresentati da questa classe politica. Non rispondo. Perché non c'è logica. Lei vuole che in un paese libero, assolutamente aperto a ogni polemica, a ogni critica, democratico come l'Italia, non ci sia una percentuale anche alta, ma minoritaria, di persone che approfittano o che comunque, pensando in maniera diversa di chi governa, utilizzano ogni occasione per ricordarlo. È normale, l'importante è che siano consapevoli che c'è una quantità di persone superiore alla loro che la pensa in maniera diversa. Ministro, l'altra polemica che c'è sui giornali, ma lei ha già risposto, è la questione di qualche malumore, mal di pancia della Lega, no? Che sa qualcuno... Cos'è, folklore? Perché tutti hanno la memoria corta, tutti hanno la memoria corta e dimenticano che la Lega partiva da una posizione secessionista che negava l'unità nazionale, che addirittura propugnava la divisione dell'Italia in più stati. Oggi siamo arrivati a una Lega che vuole il solidarismo federale, un federalismo che piace tanto alla Lega quanto a noi e che forse ancora deve compiere un percorso per capire che sono proprio gli stati federali che hanno bisogno e che amano di più l'identità nazionale, come avviene negli Stati Uniti d'America. Oggi la Lega, quando ha contestato la natura della festa di oggi, se la voleva più di serie B che di serie A, non ha detto che non voleva l'unità nazionale, ha detto che costava troppo, cioè è scesa una polemica sulla copertura finanziaria che io ho trovato sbagliata, che ho contestato e che di fatto il governo ha bocciato, ma era una polemica assolutamente legittima che peraltro l'ha vista soccombere senza che questo comportasse nessun tipo di frattura. Quindi mi spiace, a nessuno si può dare l'obbligo di festeggiare, celebrare, invece il rispetto si deve pretendere da tutti. Aspetti questo, perché questo è importante. A me non è mai capitato di vedere un giornalista che vada da D'Alema, da Fassino, da Bersani a chiedere dove si trovassero, cosa facessero il 10 febbraio, il giorno che il Presidente della Repubblica ha celebrato la memoria dei caduti nelle foibe degli italiani assassinati da Tito. Nessuno ha chiesto a chi non c'era quella celebrazione come mai non fosse presente. Ministro, nel salutarla e ringraziarla, insomma, grazie. Lei è orgoglioso, mi ci dica la cosa per cui è più orgoglioso di essere italiano. Ma guardi, da ministro io sono orgoglioso come tutti, credo, della storia di far parte della storia di questo popolo e di questa nazione, ma in questo momento sono orgoglioso del comportamento e del modo con cui stanno a fare il loro dovere i nostri ragazzi e le nostre ragazze in divisa nei confini lontani dalla patria. Penso a chi ogni giorno fa davvero qualcosa per la pace in Afghanistan e nelle altre missioni internazionali. Le missioni estere. La ringrazio, ovviamente, buona giornata di celebrazioni. Il ministro della difesa Ignazio La Russa. Ma che è sta cosa? Ma come che è sta cosa? Va fuori d'Italia, va fuori d'Italia. Cori stranieri. Com'è, che cos'è? Me l'abbiamo ma spiegata che cos'è questa cosa qua? Questo è il refrain dell'inno a Garibaldi, va fuori d'Italia. Giannino. Oscar, ma insomma, Giannino. No, adesso, e poi adesso... voi non l'avete messo all'inizio, ma all'inizio no, se l'avesse infatti... messo avrebbe fatto sobbalzare il ministro, perché all'inizio fa allarmi, e uno pensa, perché poi inizia allarmi. Fa allarmi siamo fascisti, no, perché no. Allarmi siamo fascisti, eccolo qua, allarmi. Avete messo non la prima strofa, ragazzi, ma no. Ma si scoprono le tombe, si levano i morti. Ma no, ma perché bisogna... Vedete, questo è l'inno a Garibaldi, sì. Questo, e questo inno a Garibaldi è una cosa, francamente, che è stata scritta prima di quel 1861. Cioè, questa era ciò che cantavano davvero i suoi volontari. Ma io ho visto allarmi, ho detto, oddio, mi no, ricordo un periodo allarmi, un po' più recente ma vedi, avete persino levato la prima strofa, che è quella che dice scoprono le tombe e si levano i morti. I martiri nostri sono tutti risorti. Guardate il dietrologo Giannini. Ma no, è una questione... artistica, ma di non è questione artistica. Incipi. Nelle scuole elementari che frequentavo io ce le insegnavano ancora, vabbè, questa canzone. Insieme a Bella Ciao, perché erano anche un po' comunistelli. Certo, questo certo, è il punto: certo. Erano un po' comunistelli, come tu, mi sa. Tu ne conosci di comunistelli? C'era uno di fianco, mi sa. No, mi come sa, uno di fianco, al limite di fronte, no? Perché Oscar Giannino mi dà del comunistello. Non so se con la K o con. No, no, ma adesso stiamo scherzando. Però in realtà ti darò la dimostrazione. Questo inno ai Garibaldi bisogna tornare a farlo sentire. Bisogna tornare a farlo sentire come l'inno a Oberdan, che poi sentiremo più avanti. Ah, chissà, chissà, forse abbiamo anche messo. Vediamo che strofa abbiamo messo. È quella dopo la seconda. Italia son fatte per noi, là sul Danubio la casa dei tuoi. Tu i campi ci guasti, tu i campi ci guasti, tu il pane ci involi, cioè, se stiamo parlando, Poesia, poesia pure. No, ma stiamo parlando degli Asburgo Lorena che ci rubavano i campi e il pane. Poesia e musica. Distrutto ogni segno di vecchia frontiera, la nostra bandiera per tutto innalziamo. Allora, Oscar Giannino, eccolo qua, e ce la celebra i 150 anni di Unità d'Italia. Comunque una giornata male come questa è raro iniziarla per parte mia. Io ero la notte a farmi la cura, avevo il telefono staccato, quando ho iniziato ad attaccarlo prima per venire qua, ho dovuto correre a casa perché i pompieri, una perdita d'acqua, che gli inquilini. Quindi, caro mio, che lavorano i pompieri oggi? No, lavorano perché quando ci sono le perdite nella parte sotto di casa e quindi l'eventualità che io debba pagare chissà quanto, sono dovuto correre lì, e quindi una giornata che è iniziata con non proprio con un tono di festa. Con i pompieri, vabbè. Allora, io l'ho già detto perché qualcuno ci scrive, e voi siete... orgogliosi di essere italiani, e noi visto che va per la maggiore Saviano, beh, insomma, sì, anche se fa qualche topic, no, vabbè, sì, vabbè, insomma, ecco, lasciamo stare. va per la maggiore Saviano, e noi allora abbiamo fatto degli elenchi che adesso dopo il traffico, accompagnati da, non so, forse l'inno Oberdan o forse qualche altra, o forse un inno di Mameli un po' più dissacrante, o meno, no, no, un po' più ascoltabile, è un po' più ascoltabile. Già subito la prima polemica, ma se anche il maestro Muti ti ha detto che l'inno di Mameli oggi lo dice che non toccatelo, è l'inno di Mameli. Io lo preferisco come lo ascolteremo. Che lui dice, quando io lo ascolto non mi pongo il problema di artisticamente, è l'inno degli italiani, insomma, è una musica non bellissima. Poi oggi avremo anche un nipote di Goffredo Mameli. Per carità. Ma Goffredo Mameli va rispettato, uno che ha sacrificato la vita giovanissimo. Poi esatto, lui ha scritto il testo. Comunque, in ogni caso, ci butteremo nei nostri elenchi. Io ce l'ho qua, tu l'hai preparato, l'elenco e le cinque cose per cui sei orgoglioso di essere italiano? Sì. Anche sì, quelle per cui non sì, sei ho fatto orgoglioso. Questo rito di questo tipo che sbaglia quasi tutto quello che dice. Vabbè. Va bene. Più bello così. Ma certo, è sì, un po' come gli U2 a Wembley. Ma insomma, vogliamo metterlo piuttosto che questa cosa bandistica. Ma non c'è confronto. È più bello. Vedi che andiamo d'accordo. Allora, certo, l'elenco. Teniamolo in sottofondo, che poi c'ha, sì, una, certo, fine schitarrata. Certo, quando c'è la fine schitarrata avvisateci. Allora, iniziamo dai 5 motivi per cui non siamo orgogliosi, io sottoscritto e Oscar Giannino, di essere italiani. Numero 5, mio, il turista italiano all'estero. Va. Numero 5 di Giannino. No, dai. Numero 5 di Giannino non te lo dice perché cambia invece l'ordine e ti dice i primi 3 insieme per cui non essere orgogliosi. Lo Stato, le tasse, la spesa pubblica. Ma vabbè, ma non è vero così. Ti conci con le cose, che tu mi volevi usare quello perché sapevi che era quello più favorevole a te. No, lo Stato, le tasse, la spesa pubblica. I primi 3 di Giannino e il podio di Giannino. Allora io cosa devo dire? Recupero subito. Numero 4, motivo per cui non sono orgoglioso: i furbetti. Ah, quanti furbetti ci sono, Oscar. E dico anche il numero 3 allora, no? Così. Esatto. È un paese per vecchi. Vecchi. Ma tanto invecchieremo, temo che sarà ancora più di vecchi tranne gli immigrati. No, di vecchi nei posti che contano. Ah, nei posti che contano. Sì, proprio. Infatti ogni tanto grazie al cielo cambiano anche qua. Vabbè, allora Oscar, dici il numero 4. Il mio numero 4 è le relazioni al posto del merito, cioè il fatto che insomma siamo tutti amici degli amici, si diventa direttori essendo amici degli amici, si diventa fregato, ministri, si diventa... Il mio numero 2 è il nepotismo. Infatti su questo, come vedi, almeno su un punto coincidiamo. Però, allora, ripeto, le mie prime 3 sono lo Stato, le tasse, la spesa pubblica. Allora tu di la tua quinta, cos'è che poi... Gap risolto del sud, perché questo è un problema serio. Gap risolto del sud. Io non ne sono per niente felice. Allora io voglio la mia prima, però voglio un rullo di tamburi sotto, perché così non voglio far arrabbiare Oscar. L'evasione fiscale. No, questo è il rullo di tamburi che si fa quando fa un salto mortale, non ti è riuscito bene, ti sei spiaccicato al suolo. Perché il problema dell'evasione fiscale sono lo Stato e le tasse, non la colpa degli italiani. Invece faccio notare che tu ti vergogni degli evasori, cioè degli italiani. Degli italiani all'estero, cioè degli italiani. Insomma, una declinazione di un tuo pregiudizio verso gli italiani. No. Mi sa che leggi un po' troppo Eugenio Scalfo. No! Ti vergogni, vergogni anche di me, perché ti vergogni di quelli come me. Io posso stimare Eugenio Scalfari che dice io non mi confronto con Ferrara perché io non lo considero mio pari, mi confronto al limite con Berlusconi. Non lo so. Infatti, vedi, c'è sempre una certa ritrosia a fare la trasmissione anche insieme a me. Insomma, c'è una certa superiorità verso gli italiani. Qui lo confesso, credo di non essere mai arrivato alla fine di un'articolessa, perché sono abbastanza lunghi, di Eugenio Scalfari. In ogni caso, questi sono i 5 motivi per cui non siamo orgogliosi di essere italiani. Cioè lo Stato, le tasse. E questa roba qua è la spesa pubblica. No, ma per me no, però vabbè. Veniamo ai 5 motivi per cui lo siamo orgogliosi. Siamo orgogliosi. Ok, numero 5 mio, vado io. Qual è? I missionari italiani nel mondo. Numero 5 mio invece è la generazione di mia madre che ha rimesso l'Italia in piedi, quindi io di questo non sono proprio, non ho motivi se non per dire grazie a loro. Benissimo. Numero 4 mio, l'arte di arrangiarsi sempre e comunque. Numero 4 mio sono i 6 milioni e mezzo, 7 milioni di volontari, gli italiani che danno se stessi in opere di assistenza agli anziani, ai malati, eccetera, eccetera. Quegli italiani lì dimostrano che gli italiani non sono come li hai descritti tu, invece. Non basta, non bisogna essere missionari, gli italiani senza che hanno preso i voti. Che c'entra? A me l'idea che ci sia un Saveriano, è un'idea criptocomunista la tua. Criptocomunista. Allora, il numero 3 mio, il Granducato di Toscana, che è stato il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte. 30 novembre 1786. E vedi che ti frego, perché il mio, il terzo è il corpo degli alpini, invece il corpo degli alpini tienti il tuo Granducato. Il corpo degli alpini l'hai fatto apposta. Non l'ho fatto apposta, il corpo degli alpini. Che noi portiamo c'è una lunga penna nera. Ascolta, mettiamola a 33, dai. Il tecnico Peter Bescapè è l'alpino. Ma è l'alpino per definizione. Fatta apposta, ma sono felice che condividiamo noi e milioni e milioni di italiani l'amore per il corpo degli alpini, che insieme ai volontari è una buona parte dell'Italia, buona con tra virgolette. L'hai fatta apposta. Comunque siamo al numero 2 mio, e qui ti faccio arrabbiare, lo so, perché non capirai. Gomorra. è che mi fai arrabbiare, non pervenuto per quello che mi riguarda. Il tuo numero 2, detto, non ho adesso detto si Saviano, do... allora, ho detto Gomorra. Hai dici Gomorra e tutti capiscono Saviano. Poi io so adesso, o spero quantomeno che non sia Saviano, ma un'altra ragione per cui è Gomorra. Che perché dici Gomorra? C'è un episodio. Ah. Quest'inverno ero a 2000 metri in Francia in una baita. Ah. Posto magnifico, a Voriaz. E a fianco a me c'era una signora francese che leggeva Gomorra. Oh, ma non era tua moglie? No. Ah. Francese. Ah! Vabbè, però... Vabbè, Oscar, dai, su. E questa signora a un certo punto, quando ha visto che eravamo italiani, ero con amici, ha detto, ma è per caso, in un perfetto italiano, ha iniziato a dirci, ma è per caso vero tutto quello che sto leggendo? E stava leggendo la parte in cui i ragazzi di Scampia provano la droga a basso costo. E io in quel momento mi sono improvvisamente sentito non orgoglioso, quasi mi sono vergognato di essere italiano in un primo momento. Poi c'è stato un momento in cui subito dopo immediatamente ho detto, ma no, ma che c'entra? Io sono orgoglioso di essere italiano anche per quello che c'è scritto lì. No, me la stai cucinando. Tu sei orgoglioso che ci sia un italiano che scrive senza problemi e coraggiosamente. Io, anche guarda, no, ci sono pochi libri che ho letto due volte nella vita. Uno è Il nome d'accordo. Della rosa e l'altro è Il pendolo di Foucault. Però mica per questo Umberto Eco... Cioè, anche Umberto Eco talvolta li sbaglia, stai dicendo. Molte volte li sbaglia. Che c'entra? Però scrive no, ma io sono d'accordo. Le testimonianze civili testimoniano e dimostrano che ci sono italiani capaci di descrivere anche i difetti terrificanti del nostro paese, e di questo vanno ringraziati. Però il mio secondo ragione, sì, e ciò per cui dichiaro, purtroppo non potendo più fare nessun vizio declinare io perché sto ridotto un po' male, per la seconda ragione è quella per cui vale la pena morire, perché morirò di quello, cioè il sigaro toscano. E allora siamo al numero uno, il numero uno mio, non so se ecco ci sono, è la libertà. Perché dicono che non siamo liberi, che non c'è la libertà, però c'è la libertà di stampa, che non c'è la libertà di pensiero, d'accordo, di opinione. Perché qui era essere orgoglioso di essere italiano, perché è una libertà italiana. Perché siamo in un paese libero. La tua è una sottile polemica. No, ma è una sottile polemica. Ne sono convinto. Andate in Afghanistan. Ma il solo fatto di dichiararlo significa che c'è il dubbio su questo. Ma non è vero. Ecco, beh, no. Altrimenti la libertà è una mica peculiarità italiana. Vabbè, la dichiarazione è il motivo per cui. Siccome non cado nella trappola criptocomunista, per così dire, sottilmente scalfariano illuminista, che è chiaro, avete sentito una declinazione da parte di Milan che è tutta filo Gomorra, filo Scalfaro, chi Scalfari, O, I, E, con tutte le vocali finali, A, E, I, O, U. Insomma, invece la mia è davvero una banale invece ragione patriottica. Io sono orgoglioso di essere italiano perché questa è stata la patria di Vilfredo Pareto, di Francesco Ferrara, di Luigi Naudi, Ugo Lanalfa. Ci sono dei grandi italiani, cito solo quattro, che mi rendono un nano di fronte a loro e che mi fanno sempre imparare. Quindi io, quella è la mia declarazione patriottica, questa specie di quadrilatero ideale di riferimento. Pareto, Ferrara e Naudi, Lanalfa. Benissimo, e allora ci fermiamo perché c'è il giornale radio, ma continuiamo questo speciale fino alle 10, avremo ospiti, discuteremo, diteci anche la vostra 800 24 00 24, che ne pensate nei nostri elenchi savianei e, Saviano, ma Gomorra, ho detto Gomorra, ma. E ne parliamo, ci saranno ospiti, inizieremo alle 9:10 con il professore Andrea Carandini tra poco. Sentite che bella questa fine del libro. Gli speciali di Radio 24. Morte a Franz, viva Oberdan! Morte a Franz, viva Oberdan! E queste? Le bombe all'Orsini! Il pugnale alla mano, a morte l'austriaco sovrano, noi vogliamo la libertà. Morte a Franz, viva Oberdan! Morte a Franz, viva Oberdan! Queste sono le canzoni da cantare il giorno dell'Unità d'Italia. Sentite, sottofondo chi canta? Milva. Questa è una stupenda versione dell'inno a Oberdan. Io, ahimè, cresciuto in una cultura risorgimentale per l'epopea unitaria, io tributo omaggio ai martiri redentisti come Obadan Uno, figlio di una slovena, di un veneto, che per non servire l'armata imperiale, imperial regia, venne in Italia e divenne un traditore. Lo cacciammo anche dall'Università di Roma, questa è la storia, e lui divenne un reietto sia qua che là. Però, morto Garibaldi nel 1882, disperato, lui dice: torno da clandestino a Trieste, dove lo arrestano per uccidere Francesco Giuseppe. Lo arrestano, non accadrebbe nulla, e lui si fa impiccare perché dice: no, guardate, io sono qua perché lo volevo proprio ammazzare Francesco Giuseppe. Si è auto messo il cappio intorno al collo, un martire irredentista. L'austriaca gallina. Perché l'austriaca gallina? Perché l'aquila bicipite. L'aquila bicipite era il simbolo dell'imperio regio. Pensate alla bellezza di una cosa: a morte l'austriaca gallina. Mi dà l'idea un po' popolare di che cos'era questo impeto dell'irredentismo. Scritto da un anonimo nel 1885. Allora, vogliamo ripartire così in questo speciale finale 10. Ci chiediamo: siete orgogliosi di essere italiani? Questo tra l'altro lo chiediamo a voi. E devo dire, Oscar, per ora è scemata un po' la percentuale, è scesa al 55% dell'orgoglio? Dell'orgoglio, perché è la partita prima più forte. 61. E vabbè, 61 abbiamo fatto scemare l'orgoglio. È colpa mia sicuramente. No. Io con i miei dubbi, con lo Stato e le tasse, colpa della mia Gomorra, non lo so. Allora, Oscar, eccoci qua, fino alle 10. Abbiamo un ospite che vogliamo salutare e che ringraziamo per essere con noi, il professor Andrea Carandini. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Carandini è un archeologo di fama mondiale. Professor Carandini, non usare quel tono, che è il più insigne archeologo antichista, che ci ha dato le prove provate che le leggende, considerate leggende per troppi secoli dalla storiografia sulla Roma protourbana, non sono per niente leggende. Lui si è messo lì con gli scavi, lui, i suoi discepoli, pochi soldi a disposizione, ci ha dato le prove inoppugnabili che ciò che si diceva intorno al 9-8 secolo di Roma è tutto vero. Quindi è una persona che ha dedicato la vita e il meglio di strepitose scoperte a ridare fiducia e prove della storia più antica di Roma. Uno dei motivi per cui dovremmo e dobbiamo essere orgogliosi di portare l'Italia nel mondo. Però professor Carandini è balzato anche agli onori della cronaca, perché un paio di giorni fa, tra l'altro, accompagnando tutto con una lettera molto intensa pubblicata nel Corriere della Sera, si è dimesso dal ruolo di presidente del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni Culturali. Professor Carandini, a me è molto colpito quando lei ha scritto in questa lettera di una parte del paese, una parte della Repubblica che affonda se stessa. Che cosa si riferiva? Beh, io sono arrivato alla conclusione, quando ho visto che praticamente i fondi per tutelare biblioteche, archivi, archeologia, storia dell'arte, monumenti, paesaggio, si erano ridotti praticamente a una sessantina di milioni di euro, ho capito che evidentemente e il fatto che il Ministero dei Beni Culturali sia stato il più colpito dai tagli, quindi non per nulla affatto orizzontali, salvo il Ministero dell'Ambiente che ha avuto una sorte ancora peggiore, ho pensato che evidentemente c'è una parte dell'Italia che è avversa al fatto che ci sia una istituzione statale che presiede, per volontà della Costituzione, alla conservazione del nostro paesaggio, dei nostri beni culturali, se no non si spiegherebbe tutto ciò. Oscar Giannino, un grido di dolore brutto quello del grido di dolore brutto, ma io penso che il professor Carandini abbia ragione, perché ieri, quando abbiamo criticato l'idea tagli uguali per tutti, poi in realtà il professor Carandini ci fa riflettere che non sono uguali per tutti, perché ci sono le poste, i bilanci su cui più si accaniscono. Però io penso che invece la politica è fatta per scegliere, e io penso che il patrimonio, la tutela della cultura, del patrimonio monumentale, museale, culturale nel senso più vasto, sia un grandissimo asset. Ci serve per il turismo, ma ci serve perché noi siamo quella roba lì, e quindi penso che, pur con tutta la distinzione, io sono avverso alla burocrazia pubblica, non penso che debba essere tutto pubblico, tutto del patrimonio, ma non è questo il punto. È un messaggio, secondo me, che il professor Carandini lancia al di là della politica, destra, sinistra, eccetera. Dice: guardate, il capo dello Stato, quando vi dice che su questo stiamo sbagliando tutto, ha ragione. E io penso che il professor Carandini non lo faccia per cose di strumentalizzazione politica. No, ma tra l'altro lei, professore, ha scritto: ci stiamo allontanando dalla patria, proprio oggi, voglio dire, no? È una considerazione molto amara. Da una parte nelle nostre teste, e dall'altra è in quello che vediamo intorno a noi, no? e noi siamo circondati di storia, siamo intrisi di storia, non viviamo in una foresta primitiva o in un deserto, viviamo in un straordinario deposito di storia, per cui ovviamente dobbiamo pensare alla vita, ma dobbiamo anche pensare a vivere in armonia con questo patrimonio, perché poi ricordiamoci che l'Italia è stata al centro della civiltà mondiale almeno dall'VIII secolo avanti Cristo fino agli inizi del 600, e poi comunque è stata una nazione, un luogo estremamente civile, se non una nazione. Quindi l'Italia rappresenta un modo per capire la storia del mondo che interessa non solo gli italiani, ma tutto il mondo. Vengono i cinesi, vengono i giapponesi, vengono gli indiani da noi. A Pompei gli orientali sono il 40% degli stranieri e gli stranieri sono l'80%, quindi noi rappresentiamo qualche cosa che è importante, no? Per esempio adesso i giovani si stanno battendo nel Nord Africa per la libertà, ma a Roma ci si è battuti per la libertà e la si è ottenuta nel 509 avanti Cristo, quindi con Bruto, primo console della Repubblica, quindi voglio dire abbiamo dei valori che non è che possiamo ignorare, non solo per noi, ma per l'intera civiltà umana. Secondo lei, professore, è proprio quella di Pompei la ferita dal punto di vista della incuria, dal punto di vista della gestione? Ma Pompei è ovvio che è uno degli elementi più in vista, ma insomma, se vogliamo, Pompei è, se si spendessero bene i soldi, almeno una ventina di milioni l'anno l'incassa. Quindi diciamo Pompei è in uno stato, se vogliamo, miserevole, ma è anche un caso privilegiato, così come Roma per gli ingressi del Colosseo, ma è il resto d'Italia che mi preoccupa. E quello che mi preoccupa anche è che da dichiarazioni recenti ho l'impressione che si voglia cedere per lo spettacolo, cioè si voglia dare qualche soldi, sì, in più, sì, allo spettacolo, e di ciò io gioisco con tutta l'anima, ovviamente. Però temo che poi non ci saranno i soldi per i beni culturali, perché i beni culturali non parlano, le statue, i paesaggi non parlano, siamo noi che dobbiamo parlare per loro, cioè per i beni culturali non ci sono gli studenti che salgono sui tetti, come dire. È bella questa immagine, professore, no? Oscar, i beni culturali non parlano, perché non protestano, così, non si lamentano, per non chiedono che poi, soldi. Il gesto, secondo me, del presidente del Consiglio dei Beni Culturali parla come se lo avessero fatto migliaia e migliaia di studenti. Se lo sappiamo interpretare, spetta a noi che facciamo informazione continuare a dare eco a gesti come questi. Ripeto, poi io sono uno che dice, attenzione, che spesso si confonde il denaro per mettere per far fruttare, per tutelare, per difendere il nostro patrimonio, lo si difende solo con le assunzioni pubbliche. Io dico di no, però detto questo, secondo me prima del merito, quello che conta è l'allarme, e l'allarme secondo me è molto giustificato, e sono molto grato al professor Carandini. Lei, professore, nel salutarla e ringraziarla, va avanti in questa strada? Cioè ha avuto dei segnali a dire no, professore, rimanga, vedrà che risolviamo la situazione, oppure è una situazione? No, nessun segnale. Nessun segnale. Nessun segnale. Che non è molto incoraggiante. Ma il professore, immagino, no, sappia che a questo punto il governo sarà infastidito, eccetera, eccetera. Ma però il professore che lo sa lo ha fatto comunque, quindi questo per me è ancora più apprezzabile. Comunque io sono d'accordo con Giannino, cioè è la Repubblica che deve difendere i beni culturali, quindi non solo lo Stato, ma lo Stato ha la prerogativa della tutela per la gestione, per la valorizzazione. Possono essere coinvolte le regioni, i privati, le istituzioni. Purtroppo anche le regioni guardano con un certo fastidio alla tutela dello Stato, ma questa tutela si potrebbe abbattere se le regioni avessero il senso della responsabilità dei beni culturali. Ma a me, io ho l'impressione che siano più interessate al piano casa che ai beni culturali. Professore, noi la ringraziamo, anche se con questo pizzico di amarezza, insomma, che accompagna il suo gesto, però la ringraziamo di questo. Stiamo a vedere. Comunque, finché ci sono italiani come il professor Carandini, dell'Italia bisogna essere orgogliosi. Questo è il mio commento. Viva l'Italia! Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene. E qui Oscar ci toccava, no? Beh, era perfetto. Scherza. No? Sì. Che bello quel Viva l'Italia del professor Carandini, che nonostante tutta l'amarezza ci ha lasciato con questo Viva l'Italia. È quasi commosso. Ma devo dire che sono d'accordo. Perché allora, la dedizione di una parte della cultura italiana, ripeto, non faccio questioni politiche di destra, per questa cosa fondamentale che sono la storia, le vestigia, i monumenti del nostro paese, sono d'accordo con te, anche a me suscita commozione, perché questo non si può essere italiani senza provare questo, per qualunque pezzo del nostro passato, per riappropriarcene, perché è questo ciò che fa dell'Italia una cosa peculiare. Prima della Fiat, prima di qualunque prodotto, noi siamo la storia. Non ne voglio fare alcuna retorica come fece il regime, ma siamo la storia. Chi difende qualunque pezzo di quella storia e lo interpreta è un italiano di prima fila. Allora, qualche ascoltatore, sono lì da tanto, poi abbiamo già un ospite che è con noi, ma intanto Daniela da Roma, buongiorno. Buongiorno. Daniela, lei si sente orgogliosa? Allora, è sull'aggettivo orgoglioso che ho qualcosa da dire. Io ho risposto sì al sondaggio, perché è prevalso il senso di appartenenza, di identità. Sull'orgogliosa, avevo un po' di perplessità, sicuramente, ecco. Però, tutto sommato, la mia bandierina l'ho messa, e voglio dare una testimonianza, soprattutto rispetto a quella parte poi tutto sommato incolta, perché penso che appartenere e sentire un'identità sia un fatto di cultura. Se a scuola si studiasse meglio la storia, tutta la storia, si desse più importanza, probabilmente la gente la sentirebbe di più. La cultura oggi è prevalentemente moda, secondo me. Le file, sì, alle mostre, eccetera, no? È un po' un passaparola, ci si deve essere, ma non una spinta interiore di conoscenza. Grazie Daniela per essere stata con noi. Ci sono tanti ascoltatori, Antonio, Nino, Patrizia, Guido. Io devo dare un attimo però una precedenza a un nostro ospite, caro Oscar. Abbiamo anche un altro ospite e dobbiamo introdurlo solo così. Non c'è un altro modo, voglio dire. È Nino Mameli, buongiorno. Buongiorno, che ringrazio e saluto lei e tutti i radioascoltatori. Allora, il cognome dice a pensare, no? Ci fa anche a me, Oscar Giannino, fa pensare qualcosa. Mameli, lei è parente? Parente, sì. Lontano parente, perché praticamente, come ho già detto, di discendenza diretta Goffredo non ne ha, però abbiamo lo stesso ave in comune, Donna Giovanni Maria Mameli. Scendiamo dallo stesso ave. Io la affido a Oscar, perché noi abbiamo detto che l'inno è un po'... Le parole non si discutono, certo, come ovvio. Io c'ero un po' con la musica. Con la musica dell'esecuzione ufficiale, quindi ho preferito la parte... No, però noi stiamo parlando qua di... Un classico esempio di questa fulgida generazione che si è immolata, ha dato la vita giovanissima in un empito e tirando fuori queste che poi sono state le parole in cui ci riconosciamo tutti quanti. Quindi, per lei che cosa significa portare questo cognome in realtà? Nella sua vita che cosa ha significato? Ma un pochettino mi ha sempre pesato, e anche una certa responsabilità, specialmente adesso che faccio l'autore, cioè il biografo di Goffredo Mameli, logicamente mi pesa. E sono costretto a farlo con maggiore scrupolosità. Io adesso praticamente la cosa che ho detto sempre nei miei convegni, con incontri con gli scolari, finché parlo una voce sola che si chiama Nino Mameli, ma non leggono tutto il materiale che ho scritto, sia la prima biografia di un gigante del Risorgimento, e ho curato tutti gli scritti di Goffredo Mameli, perché la maggior parte del pubblico crede che Goffredo Mameli abbia scritto solo l'inno, invece che ha scritto molte altre poesie, poi soprattutto era anche un politico, quindi 40 articoli di natura politica. Tutto questo materiale io l'ho raccolto in tanti anni, adesso è pubblicato Goffredo Mameli Scritti, che pubblica la Maregni Editore Firenze Libri. Questo è necessario di tutto per capire chi è Goffredo Mameli. Bisogna leggere per forza tutti i suoi scritti, ma visto, anche visto la preoccupazione del presidente Giorgio Napolitano, visto che poi è famoso adesso, soprattutto per Lino, perché è inutile, loro lo conoscono solo perché infatti tutti quando hanno visto poi questo volume, che sono 458 pagine, chi li ha scritti? Non c'è, poi io ho fatto un po' di commento, però li ha scritti tutti lui, addirittura c'è persino un dramma in versi che va scritto a 16 anni. Vabbè, ma comunque lei è orgoglioso, ci dica sì, no, è orgoglioso di essere italiano? È orgoglioso di essere italianissimo. No, ma è orgoglioso di essere italiano, perché sì, cosa? Certamente, guai se non lo fossi, ecco. Rinnegherei tutta la mia storia. Certo. Intanto la ringrazio, Nino Mameli, per essere stato con noi. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Intanto Patrizia da Roma, sentiamo ancora due ascoltatori se ci dicono qualcosa su Patrizia. Poi parliamo un po' di storia poi tra poco. Patrizia, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. Io sono partita sull'impeto quando ho sentito l'intervento del professor Garandini. Io mi occupo di arte, nel senso ovviamente l'arte di palcoscenico. Nasco come danzatrice e adesso sono un produttore di una compagnia di giovani, quindi quello che porto è un messaggio di cultura. Noi sono molti giorni che stiamo parlando con il nostro pubblico prima di cominciare. Io ritengo la cultura un premio, scusate che sono molto emozionata. No, ma noi siamo emozionati. Primario. Un bene che portiamo con noi insieme al pane, all'acqua e alla cultura. Oh, lei dice il pane e l'acqua. No, Patrizia, ma ha usato questa terminologia. Oscar, ma questa famosa frase, la cultura non si mangia, l'ha detta Tremonti? No, purtroppo l'ha detta Patrizia, non si sa. In realtà non c'è una versione virgolettata. Voi sentite chi ripete dicendo che l'ha detto. Ma comunque sia, il problema è che in realtà la cultura viene prima del pane. Questa è la mia stessa. Sono d'accordo con chi sta intervenendo su questo. Viene prima perché senza cultura il pane non si è neanche capace di panificarlo. Diciamo che noi non possiamo scegliere che pane mangiare se non abbiamo cultura. E questo è il problema. E quindi... Ma comunque diceva, voi parlate e spiegate prima gli spettacoli vostri a chi è venuto. E alla fine cosa gli dite? Ma diciamo che, ripeto, siccome questo è un bene primario a cui non possono rinunciare, non possono permettere che questo venga tolto dal, diciamo, io sono ovviamente molto sensibile al taglio del FUS. E stiamo facendo una grande mobilitazione su tutti i settori, il nostro di danza sarà il 23 di questo mese, ma comunque è in generale che non possiamo concedere che questo venga considerato come diciamo soldi buttati, c'è tanto spreco, c'è tanto spreco questo sicuramente. Però il pubblico deve sapere che deve essere vicino a noi e che non si può rintanare nelle case si può rintanare adesso, il pubblico valuta, perché il pubblico è fatto anche di contribuenti, vede che dalle altre parti del mondo, poi non è detto che per forza gli spettacoli bisogna farli col denaro solo pubblico. Insomma, io difendo la cultura, meno l'impostazione politica, perché penso che la questione, tante volte vogliamo parlare del cinema, tante volte il contribuente vede i soldi pubblici nel cinema che fine hanno fatto e dice coi soldi pubblici. Ecco, tante volte avviene questo. Tra il tema è molto dibattuto. Oggi leggevo che anche il direttore del Piccolo di Milano, Escobar, ha detto minaccia le dimissioni. Come no? Io ieri ho ospitato Bruno Cagli, il sovrintendente di Santa Cecilia, che ha fatto la stessa cosa. Insomma, il tema è molto dibattuto. Però pare che ieri Tremonti, incontrando anche il maestro Muti e il sindaco Alemanno, ha detto veni, vidi, capii. E quindi pare che il problema potrà essere risolto, anche se il professor Carandini ha detto bene, pare che si troveranno i soldi lì. Invece il professor Carandini, da antichista romanista, direbbe beh, se si mette nella parte di Cesare troverà il suo brutto. Poi parliamo un pochino di storia con due storici, perché, sì, insomma, anche perché insomma poi ammettiamolo, oggi festeggiare questa data in cui Vittorio Emanuele II assumeva per sé il titolo di re d'Italia, io sono unitario, ma anti Savoia. Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le regge, coi budelli dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e il Re. Rivoluzione sia, guerra alla società. Oscar, perché sto per vivere così, meglio morire per la libertà. Poi sarei io il comunista. No, attenzione. Questa. E il Vaticano brucerà. E il Vaticano brucerà col Papa dentro. Con dentro il Papa, io dico il Papa dentro. E se il governo si opporrà. E se il governo si opporrà. Rivoluzione. Cioè, questo è usato anche dagli anarchici. Ma certo, ma guardate, bisogna fare la storia completa di ciò che ha contribuito all'unità, al risorgimento, eccetera, eccetera. La bandiera nera dell'anarchia, insieme a quella rossa dei repubblicani, è stata un pezzo della storia unitaria per l'unità d'Italia e per le lotte sociali italiane. No, perché poi, si sappia. Perdonate, che ma io da ragazzini noi insegnavamo alla Federazione Generale Repubblicano: bruceremo le chiese e gli altari, con il budello dell'ultimo prete, piccheremo il Papa Re. È ovvio che non lo facciamo più come programma storico, ma bisogna ricordarli questi canti e ogni tanto andarli a cantare anche dietro qualche chiesa. Però, va bene. Senti che virtuosismo, ma, anche. No, è virtuosismo. No, ma nel senso ha avuto un cambio di timbro. Ma certo, ma no, non mi dire che tu non hai mai cantato nella tua vita Addio Lugano Bella, dai. Ma dai. Vabbè, forza. Allora, Guido da Seregno, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Orgoglioso di essere italiano. Sì? Perché abbiamo Oscar Giannini innanzitutto. Bene, beh, questo. Scherzi a parte, no. No, non è uno scherzo. No, orgogliosi di essere italiani. Non sono orgoglioso invece del culto del risorgimento su cui si stanno incentrando questi festeggiamenti. Il recente revisionismo storico ha ormai accertato come il risorgimento sia stato animato dalla massoneria e spinto da ideali anticlericali e violenti. La canzone che avete messo adesso lo dimostra. E l'abbiamo messa apposta, Guido. Ecco, su questo penso ci sia un silenzio assordante. Vediamo un po' però, Guido. No, di questo. Ecco, di questo la ringrazio. Di questo allora vogliamo parlare, perché abbiamo due storici. Francesco Perfetti, che insegna alla LUIS di Roma. Buongiorno, professor Perfetti. Buongiorno. E Sergio Luzzatto, che insegna all'Università di Torino. Scrive anche sul Sole 24 Ore. Professor Luzzatto, buongiorno. Buongiorno. Siamo qui anche con Oscar Giannino. Allora, professor Perfetti, vuol dare lei prima una risposta all'ascoltatore, Guido da Seregno, dire cosa vede lei in tutta questa retorica risorgimentale di questi giorni? Ci azzecca un po' l'ascoltatore? Ma io non direi che siamo di fronte a un'ondata di retorica risorgimentale, direi che siamo di fronte a tutto sommato un sano recupero della nostra storia, del nostro passato. Io credo che il risorgimento italiano sia stato un grande fenomeno, non soltanto italiano, la versione italiana di un fenomeno europeo di dimensioni più importanti, che noi per troppo tempo abbiamo dimenticato e messo nel cassetto, complici gli insegnamenti universitari ma anche secondari, che hanno poco alla volta messo da parte l'immagine, diciamo così, geografica e mitica di questo grande avvenimento che è alla base della nostra storia. Però qua, unitaria. Però qua il nostro Oscar Giannino prima ha detto: cosa sei, anti-sabaudo, cioè non ti va la piemontesizzazione, quella che ha portato il debito pubblico, no, l'ha no, estesa no, tutto no, a me il semplicemente Regno d'Italia, io penso queste che, banalità, ma no, no? No, io penso che l'uomo della dinastia è stato un ruolo della dinastia. È ovvio che secondo l'unità l'ha fatta Cavour, hanno fatto i liberali borghesi moderati, prendere come giorno per l'unità, il giorno in cui nel Parlamento eletto, insomma, si vota l'articolo unico che il re Vittorio Emanuele II assume per sé per i suoi successori il titolo di re d'Italia, a me non piace molto, ma perché rimango antidinastico e perché poi questo solo fatto che non avesse cambiato neanche la numerazione, Enrico III di Navarra quando diventa re di Francia e rinasce la stata unitaria, la Francia unitaria moderna, diventa Enrico IV, cioè Giacomo Stuart quando diventa Giacomo I, che era Giacomo, e invece neanche questo. Allora a me questo giorno qua, io un po' anti Savoia sono. Professor Luzzatto, lei che ne pensa? È giusta la posizione di Giannino di essere un po' anti Savoia, avere questo approccio? Ma guardi, io penso che volendo scegliere una data nell'ambito dell'anno centocinquantenario, diciamo, per festeggiare l'unità d'Italia, forse quella era una data plausibile. Poi gli italiani, appena si sceglie una data, diciamo, trovano qualcosa da ridire, perché effettivamente ogni data è portatrice, come si può dire, di patrimoni o di miti o di ideali che non sono sempre inclusivi, no? Delle volte sono anche un po' esclusivi. Francamente però non penso che il problema del 17 marzo sia il più significativo, sì, infatti, nell'ambito, infatti, della, infatti, discussione di questo periodo. Posso farne una domanda? Intorno al fatto che poi si dice sempre il cemento nazionale, i valori patri non sono molto forti, le ragioni sono nella storia italiana, le sappiamo, è chiaro che il fascismo è il fascismo, le mancate risposte alla questione sociale, ma la domanda che le faccio è, nell'ambito storiografico, la famosa polemica sui 50 anni di forza, prevalenza, diciamo, della storiografia di filone gramsciano, marxista, anche sul risorgimento di cui stiamo parlando oggi, sul risorgimento della questione nazionale come fenomeni elitari che non davano la risposta né alla questione agraria né poi alla questione sociale, questo retrospettivamente quanto conta, secondo lei, nel fatto che poi, anche per questo, rispetto al filone storiografico liberale, il Romeo, per capirci, in realtà ha indebolito in qualche misura, ha contribuito a indebolire, non era responsabilità premonita, ha contribuito a indebolire questo fatto di sentirci un pochino più uni e un pochino meno divisi? Ma diciamo, sicuramente c'è stata una prevalenza di quella lettura rispetto a quella liberale, che invece dietro verifica si è rivelata più corrispondente, per così dire, alla realtà delle cose, o se non alla realtà delle cose, alla maniera in cui noi adesso le ripensiamo. Dopodiché forse ci si potrebbe anche domandare quanto diciamo, gli italiani nel loro complesso si sono accorti che c'era un'interpretazione gramsciana prevalente rispetto a quella... Elite, certo. Cioè è vero che questa... gramscianismo prevalente si è depositato in tanti manuali scolastici, che però guardi, io abito all'estero, lei mi sta raggiungendo all'estero, mia figlia oggi nella scuola, diciamo, qua in Francia, nella sezione italiana, festeggiano l'Unità d'Italia e le hanno fatto recitare per oggi La spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini. Mercantini, sì. Quando l'ho sentito... Che è lo stesso autore dell'inno a Garibaldi, poi, quindi è proprio, sì, esattamente, no, ma voglio dire, lo stesso. Era esattamente quello che facevamo noi 40 anni fa e evidentemente c'è anche molta continuità. Ma sa perché glielo dico però? Perché vede, una cosa che mi colpì, che il mio primo giorno di scuola, la scuola pubblica italiana, Torino, Mirafiori, non voglio dire che anno, 1960, primi anni 60, noi il primo giorno ci fecero cantare il primo inno patrio che ho cantato io, era Bella Ciao, e questo forse però la dice un po', ecco, sì, della temperie, cioè, forse non è tanto Gramsci contro Romeo che spiega, diciamo, una difficoltà di metabolizzare queste cose, ma, come si può dire, è piuttosto un insieme di divisioni, di rivoluzioni sognate o mancate o fatte a metà, che contribuiscono oggi, lei ricordava giustamente la resistenza, cioè ricordiamoci che la resistenza era stata poi vissuta sia come quarta guerra del risorgimento, sia invece a sua volta come altra rivoluzione mancata o rivoluzione tradita, quindi io credo che gli elementi sono tanti e vanno ben al di là di un contenzioso accademico e storiografico fra il professor Romeo e gli epigoni di Gramsci. Sì, tra l'altro sulla resistenza, non so se il professor Perfetti su questo, il tema della resistenza, crede che sia il periodo storico che più nei 150 anni divide in qualche modo ancora, appassiona e divide gli italiani? Perfetti. Ma io credo, credo che appassioni e divida gli italiani più attraverso la lettura che ne danno i giornali che non nella realtà. Io credo che sostanzialmente anche questo fenomeno sia stato, sono passati circa 50 anni, sia stato metabolizzato, e ormai gli italiani di oggi sono italiani che hanno superato le divisioni tra fascismo ed antifascismo. Ma per tornare un momentino a quello che stava dicendo lo Zatto, io sono sostanzialmente d'accordo con lui a proposito del dibattito fra storiografia gramsciana e storiografia liberale. Il problema è che il risorgimento in quanto tale è un fenomeno molto complesso e molto articolato, e paradossalmente la vera immagine, il vero risorgimento, paradossalmente è quello che noi troviamo attraverso la lettura oleografica di quelle stampe che mettevano insieme i quattro padri della patria, cioè i quattro padri della patria che esprimono le diverse anime da quelle rivoluzionarie a quelle costituzionali, alla fin fine, al di là del mito, rappresentano una realtà vera. L'Italia è stata fatta in quel modo e per lo sforzo concorde e comune di queste persone e degli ideali che comunque sia queste persone in qualche misura si riallacciavano. Sì. Bene. Io grazie professor Francesco Perfetti e professor Sergio Luzzatto per essere stati con noi. È una lettura storica, certo, poi molto molto molto sarebbe molto lungo dilungarsi su 150 anni dell'Unità d'Italia, ma questo spaccato è interessante. Nell'ultima parte sentiremo qualche ascoltatore, chissà, c'è anche forse un altro ospite, forse qualche chicca, chi lo sa. Comunque morte a Franz Wibobberdan. Te la rimettiamo. Così la facciamo ricantare a Oscar Giannino. No, sennò sembra un ubriaco. No, ubriaco no. Però insomma, canti meglio di Milva. Oh yeah! A noi ci piace questo. Noi ci possiamo fare questo. Una versione all'acido lisergico. Sì. Ma devo dire che anche su Facebook tutti che sta discutendo un incredibile successo. Beh, meno male, vedi che riusciamo a riavvicinare anche senza chi è lontano, senza fanfarone, fanfaronate, senza trombone e trombonate, ministri e ministroni, ministresse e ministrini. Siete la semplicità, ma il ritmo, no? La cadenza. Intanto il 56% si sente orgoglioso di essere italiano. A malapena, ammettiamolo, a malapena. Ma quello che fa pesa molto in giù sono le tasse, sono le Stato, capisci? Questa roba qua. Non lo so, chiediamolo a Domenico dalla provincia di Barletta, Andria, Trani, la Bat provincia, Domenico. Buongiorno. Niente, il mio intervento, io sono anch'io orgoglioso di essere italiano. Ma non lo dica perché oggi va detto. Se non lo è, sì. Non lo è. No, se no, lo no, è. Sono, no, non sono veramente orgoglioso. Però, dico, tra tanti sistemi per raggiungere l'Unità d'Italia, forse quello dell'annessione regia attraverso una guerra di conquista era, se lo paragoniamo al modo con cui la Germania raggiunse l'Unità d'Italia, forse l'unità nazionale. Forse ci sarebbe da dire. Mm. Però io dico, in tutto questo clima, diciamo così, di celebrazione un po' retorica, di celebrazione. Ecco, io dico, ma possibile che un pensiero a quei puri soldati borbonici di animo, di spirito, no, ma è giusto, che combatterono per il loro re legittimo e per la loro patria, che non dimentichiamo era la patria per eccellenza dell'Italia di quell'epoca, perché nasceva da Ruggero II il Normanno e è arrivata fino al 1861 più o meno con diverse variazioni territoriali, ma con diverse dinastie, però il regno delle due Sicilie era, insomma, dico, è stato dimenticato. Domenico, io penso, guarda, noi dobbiamo ringraziare, perché Domenico la Barretta ci porta la voce di molti di coloro che negli ultimi anni sono diventati un fenomeno vero, rilevante nella cultura del nostro paese, per tutti questi libri, per questa rilettura del fenomeno del sud di fronte alla conquista regia. Tutti coloro che dicono eravamo molto più ricchi, avevamo l'industria eccetera eccetera, avevamo molto meno debito di voi, molte meno tasse di voi eccetera eccetera. Io penso che bisogna dare attenzione a questo, quindi grazie Domenico. Sì, certo, noi ricordiamo anche i poveri ufficiali e soldati dell'esercito borbonico che poi vennero deportati nelle fortezze in Val d'Aosta e morirono di stenti al freddo, perché poi la durezza della storia è fatta di queste cose. Secondo me un tributo anche a loro. L'Italia è stata fatta col sangue, con gli errori, ed è stata una conquista regia, lo dico anch'io. Io per esempio celebro Cavour e i garibaldini, se ti Savoia, mi stanno un po' qua, non ci posso fare niente. Però detto questo, l'Unità d'Italia va ricordata a tutti. Bisogna poi ricordarci che l'Italia in realtà nasce solo nelle trincee della prima guerra mondiale, quando gli italiani, che veramente non si riuscivano a parlare con lingue diverse, lì per forza 700.000 morti imparano la stessa lingua. Chissà se questa versione dell'inno d'acido, almeno questa unisce, no? D'acido lisergico, hai detto. Vabbè, adesso senza voler. No, non so, chissà se questa piace a Matteo Salvini. Buongiorno Salvini. Buon giovedì di lavoro a tutti. Oh, bravo Matteo! Eccola lì, la polemica della Lega. Finalmente. Ma che è la polemica della Lega? Dai, l'Italia che vuole lavorare per festeggiare in maniera diversa, ma lavorando, ma ha ragione Salvini. Ma infatti noi stiamo lavorando, Oscar? Ma certo, però hanno voluto che non si lavorasse. Si poteva o non si poteva festeggiare sui posti di lavoro? La mia risposta è sì. Salvini, sapete che fa? Prende baracca, trabiccolo. Cosa prende Salvini? Scrivania? Già solo il fatto di dire baracca e trabiccolo significa che lo vuoi presentare male. Io difendo la scelta di Salvini. Ma no, Salvini, che fa? Il problema è che oggi gli uffici del comune sono chiusi, sì. E quindi siccome io però faccio il consigliere comunale e approfittando di molti milanesi in vacanza che possono incontrarmi oggi, porto giù la scrivania dall'ufficio che è chiuso con la seggiola e il computer e mi metto di fianco al comune. Bravo. Per ascoltarli. E riceve, bravo. E riceve lì, a Palazzo Marino. Posso dire che un primo grande esito di questa festa c'è, perché oggi a Milano si viaggia in macchina come non si viaggia neanche a Ferragosto. È un po' meglio delle copasse, lei che dice? Vabbè, Salvini quindi riceverà i cittadini perché lui lavora. Un esempio, no. Tu vorresti farlo ricadere nel rito della Lega che non si riconosce. Ma se tutti gli amministratori si riconoscessero tanto nel valore di queste scelte da mettersi a disposizione dei cittadini, ma andremo meglio, andremo peggio. Andremo meglio. Devi dirlo, Mila, ti voglio sentire. Ma io lo dico, Salvini è uno che passa tanti giorni nei mercati con la gente. Fa quello che dovrebbe fare un politico e tanti politici dimenticano. Poi vabbè, dice delle cose ogni tanto, no? Matteo, noi la chiamiamo e ogni tanto non siamo d'accordo. Cioè dice delle cose che ti colpiscono per quanto sono fondate, questo stai dicendo. Posso provare a stupirvi dicendo che Bossi, dal mio punto di vista, sta cercando di chiudere un percorso cominciato 150 anni fa, che è cominciato con Cattaneo, con Cavour, è andato avanti con Einaudi, è passato per la resistenza federalista che scrisse la bellissima carta di Chivasso, che ahimè pochi insegnanti fanno ricordano i loro studenti, i loro alunni, però magari siccome sono a casa e ci ascoltano, se uno va su Google, digita carta di Chivasso e vede che già c'è. Nel 1943 c'erano dei partigiani che sognavano un'Italia federale. Così facciamo la storia. Sì, noi qua dobbiamo chiudere, io avevo qua un mira pur di chiudere su Salvini, va di fretta, allora chiudiamo con l'unico inno che Milan conosce, quello sovietico. Sovieti velikaya Rus Da zdrazduje so zdani vole portatelo narodav, via jedini magucci sovietski saju. Senti che bello. Zdravzio tiece sva. Posso dire che musicalmente è bellissimo, Matteo. Musicalmente mi piace più di altri, senza fare riferimento che crescendo a nulla, No. Ma voi dovete capire che in realtà Milan sa il russo, e Milan è una di quelle generazioni di italiani che studiavano il russo la speranza dell'avvento di Baffone. Questa è la verità. Guardate, sarò è qui di fronte schedato, a noi. Sarò schedato ad avvenire Baffone. E beh, io per questo sto con Salvini, capisci che c'è una scelta di civiltà. Ma anch'io sto con Salvini, poi è milanista come me, ma che dobbiamo fare? Matteo Salvini, grazie, buon lavoro, anche se un po' fuori, no, fuori dagli uffici, ma no, ma adesso davanti. Queste bandiere con la faccia di Matteo le vogliamo ammainare o restiamo? Perché sono rimaste solo quelle. No, assolutamente. Buona giornata. Grazie anche a lei. Chiudiamo con l'inno sovietico, versione sovietica, poi neanche con le parole. Io preferisco la versione roccheggiante di quello italiano. Vabbè. Oscar Giannino, grazie, anzi se, cioè, sono io che ti ho occupato lo spazio, ma domani torni. Spero che il pubblico sia rimasto un po' sanamente stupito di questa versione un po' ironica di un grande giorno che abbiamo voluto darvi, soprattutto per demerito mio che ho fatto un po' il buffone. Smettila. Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli, redazione, e Peter Bescapè. L'Alpi. Oh, santo Dio. Che bella cosa. Gli alpini, ragazzi. Aprite le porte. Che passano i vecchi alpini. A domani.